progetto, ci metto una pietra sopra, mi sento un reietto e la vita non perdona. È vero che ferisce più la lingua della spada, ma la gente permalose, sai, spesso cambia strada. Io forse faccio musica perché ho bisogno solo di conferme, ma non mi schiacciare come un verme. Si sa dove si nasce, non si sa dove si muore. Oggi resto al verde, ho perso il tuo calore, ho perso il tuo sorriso, ho perso confidenza. Adesso un po' represso nei miei flussi di coscienza, mi chiedo che cos'è davvero tutta la mia essenza. Sono io che sto cambiando, siete voi che diffidate. Tu spegni il cellulare, non mi chiami più stasera. Se poi gioco le mie carte, io non faccio primiera. Ho tolto le castagne dal mio fuoco, dal passato, e qui rimane la galera. Rimango più frustrato, lo sai che due padroni non si possono servire. Ho perso quasi il tuo saluto e a me tocca partire. Ma le dita della mano non sono tutte uguali, e non c'è rosa senza spine, si spezzano le ali. Un ago nel bagliaio, io di certo non mi arrenderò. Questa penna scriverà fino al giorno in cui morirò. Non è la verità che non c'è tempo per parlarsi. Adesso non importa se non sono più nella tua top. Ti chiedo perdono, vado avanti ma non mollerò. Canto con la forza che ho di dentro, io non smetterò. Non è la verità che non c'è tempo di incontrarsi. Adesso non importa se non sono più nella tua top. Preparo un nuovo disco ma è già carne da macello. La gente perde la mia stima e perde il mio consenso. Ma chi nasce quadro non può morire cerchio. Ha un guanto di velluto con la mano fatta in ferro. Adesso è vero che quel giorno resterà solo una foto, solo una comparsa, un movimento senza scopo. Chiuso come un topo in una gabbia di illusioni, vedo solo i tuoi interessi, prender posta i tuoi valori. Ma se l'imprevisto resta il sale della vita, cerco la fortuna nella tua carezza amica. Non faccio più la vittima, è il lavoro che nobilita, ma rende anche una bestia, e a volte sai mi limita. Io ti chiedo scusa se ti ho trattato male, e adesso dalle scale c'è chi scende e c'è chi sale. Ma quanto dura tutto questo, a volte tu ci pensi. Sono come un uomo che ha il pane senza i denti. Un ago nel bagliaio, io di certo non mi arrenderò. Questa penna scriverà fino al giorno in cui morirò. Non è la verità che non c'è tempo per parlarsi. Adesso non importa se non sono più nella tua top. Ti chiedo perdono, vado avanti ma non mollerò. Canto con la forza che ho di dentro, io non smetterò. Non è la verità che non c'è tempo di incontrarsi. Adesso non importa se non sono più nella tua top. Non è colpa di nessuno se siamo distanti.